Questo è il terzo anno che invadiamo la piazza, il secondo in presenza per l'appunto, come ricordavi, il primo anno c'era la pandemia, era un disastro, e abbiamo quest'anno la cosa, diciamo, più bella che mi viene da dire su questa popolazione di ragazzi e ragazze è che sono molto molto molto diversi fra loro. Vengono da paesi anche lontanissimi, vengono da Mirandola, come da Bologna Centro, come da altre parti, appartengono a background familiari e sociali molto diversi fra loro. Ci sono i ragazzi dei licei, ma dei professionali, ma anche dei centri di formazione per il lavoro, dove vanno quelli che hanno magari abbandonato la scuola e cercano lì un nuovo spunto per un nuovo inizio. Ci sono tanti ragazzi e ragazze che vanno nei centri, vuoi di quartiere, vuoi giovanili, vuoi con l'educativa di strada, cioè. Ci sono veramente tante persone che gradualmente negli anni abbiamo imparato come intercettare. Perché questo? Perché se vuoi fare un progetto dove ascolti la voce di queste generazioni, non puoi andare solo a scuola, non puoi andare solo in classe, devi andare da quelli che per esempio a scuola non ci vanno, devi andare da quelli che non hanno tanta voglia o tanto coraggio di parlarne e così via. E politico-poetico è questo, cioè un progetto di ascolto. Noi mettiamo a disposizione gli strumenti del teatro, gli strumenti della facilitazione, i piccoli lavoretti di gruppo, delle strane metodologie per facilitare il fatto che una persona giovane di quell'età ti possa dire che ne pensa del luogo in cui vive, che ne pensa della società nella quale stiamo tutti, come sta individualmente e ti dica le criticità, ma ti dica anche che cosa farebbe per aiutare a superare quelle criticità? Quindi non è un progetto di lamentazione, è un progetto dove uno si tira sulle maniche e dice: questo mondo così non mi piace, propongo questa cosa per cambiarlo, oppure aiutatemi, cari adulti, a cambiarlo, oppure vorrei che si sollevasse un velo su questa questione, eccetera, eccetera. E i temi sono i più diversi: ambiente, disuguaglianze e diritti, città e comunità, salute, salute mentale soprattutto, lavoro, quindi guerra, pace, ci sono veramente tante tematiche sul tavolo e tantissime idee. Gli obiettivi sono due fondamentalmente: il primo è che ognuno, ognuna di loro trovi un suo progetto, una sua idea, o tutt'al più in coppia o in terzetto con i compagni, e tutte queste centinaia e centinaia di progetti finiranno per l'appunto domenica 19 aprile alle 4:30 in Piazza Maggiore, in una cosa che è una via di mezzo tra un flash mob e uno spettacolo diffuso, con tutte le cassette della frutta che diventano dei piccoli palcoscenici, in cima ai quali loro ci raccontano la loro visione del mondo, della Bologna del futuro, eccetera.